ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto. Dentro i baci che mi davi c'era il senso della vita. Ci sembrava fosse un gioco, abbiamo perso la partita. E se è vero che è finita e che siamo stati bene mentre sbagliavamo tutto, prima o poi avremmo il coraggio anche noi di metterci un punto.